È una mostra del cinema, quella di quest'anno a Venezia, che probabilmente non ha ancora in questo primo piccolo bilancio della prima fase che si è conclusa con lo scorso weekend, ma c'è naturalmente un'altra settimana, non ha offerto film clamorosi, anzi per quanto riguarda il concorso, e quindi questo ha finito anche in qualche modo per lasciare più spazio alle altre sezioni, una sorta di livellamento che solitamente nell'organizzazione, nelle strutture dei grandi festival cinematografici non era sempre così vera. E invece in questa mostra di Venezia un po' sospesa, con pubblico limitato anche nel weekend, insomma, sono arrivati in pochi al Lido, ma con un senso quasi di malcelata soddisfazione per il ritorno in sala, quasi come dire, al di là dei film che si vedono, anche se qualche film naturalmente interessante c'è stato, ad esempio Pieces of a Woman di Kornél Mundruskoj, regista ungherese sponsorizzato da Martin Scorsese, con questa storia familiare ambientata a Boston in trasferta americana, appunto l'autore di Jupiter Moon, che ha costruito un film in maniera davvero molto, molto articolata, con appunto questi pezzi di una donna che si riferiscono alla protagonista che è impegnata appunto nella separazione dal marito, in un film in cui la perdita rimanda ad altri lavori come La stanza del figlio di Nanni Moretti, e dove comunque ci sono attori decisamente in palla, compresa la veterana Ellen Burstyn, protagonista, qualcuno lo ricorderà, di Alice non abita più qui, il film appunto di Scorsese. Ma dicevo, in un programma che comunque regalato appunto anche qualche spunto interessante, oltre che questo come una sorta di contrappeso, una attenzione anche forse un po' eccessiva ai look, al glamour, alle passerelle comunque rinchiuse, comunque non visibili al pubblico, ma invece riprese dalle immagini, quasi come una sorta appunto di camera di compensazione. Dicevo che invece nelle altre sezioni, le sezioni parallele stanno offrendo molti spunti, peraltro anche con film legati, prodotti o realizzati in Emilia-Romagna. Ma guardando un po', ieri ad esempio il film documentario di Mellara Rossi sui 50 anni del Festival di Sant'Arcangelo, ma guardando invece a quello che sta per arrivare domani, grande attesa per l'ultimo film di Gianfranco Rosi, che qui a Venezia ha già vinto, e che presenterà appunto questo suo Notturno, un film che ha avuto una gestazione molto lunga, molto complicata, girato nel corso di 3 anni, dopo Fuoco a Mare, dopo il film sul grande raccordo anulare con cui aveva vinto Venezia. È un film che è stato girato in zone caldissime, ad esempio in Medio Oriente, confini tra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, ed è un film che racconta la quotidianità di guerre civili, di invasioni, di ingerenze straniere, racconta anche storia di oggi o di ieri, le vicende dell'Isis, in una narrazione in cui comunque, come dire, Rosi cerca di superare in qualche modo le barriere geografiche e di darci conto di questo notturno, di questo clima appunto notturno che sembra essersi impossessato della nostra vita, della nostra storia. Un film, dicevo, molto complicato, dalla gestazione non semplice, e va dato atto a Rosi di essersi rituffato in un'impresa davvero da far tremare i polsi, nonostante appunto il successi e l'affermazione. A proposito poi di storie contemporanee, oggi è invece anche il giorno nella sezione Orizzonti della Troisième Guerre, un film diretto da Giovanni Aloy, che è un regista bolognese, anche se insomma un po' giramondo negli anni, una produzione francese che ci riporta, che poi verrà distribuita anche in Italia da Wonder Picture, la distribuzione bolognese, ed è un film che ci riporta anche questo al presente, a un presente che naturalmente è pre-Covid, ma non per questo è meno angosciante. La vicenda appunto di un giovane militare francese che riceve come prima assegnazione in un'operazione di sorveglianza a Parigi per scortare un corteo antigovernativo, e appunto questo ragazzo si ritrova nel mezzo appunto di una folla in rivolta, di una rabbia appunto che sta per esplodere. Ecco, questo senso di implosione, devo dire che è una vena che sta emergendo da tante delle proposte appunto veneziane, e credo che in qualche modo sia anche in fondo appunto un frutto o comunque una diciamo una derivata rispetto alla situazione in cui naturalmente anche questa mostra si svolge, e nelle modalità ovviamente non semplici con cui viene gestita. Non c'è dubbio che Venezia quest'anno, la mostra di quest'anno, ripeto, offra dei percorsi molto meno, come dire, dei paletti molto meno chiusi, meno vincolanti, anche proprio nella fruizione, dove poi naturalmente si possono scoprire anche formati e l'eterogeneità del cinema contemporaneo, che ovviamente è sempre meno canonico, offre una complessità di formati, di ipotesi, di possibilità, di strutture, di durate, come conferma ad esempio un film come Sporting Life di Ebol Ferrara, che è un nuovo capitolo di questi diari appunto di vita e di lavorazione, dove cinema e vita si confondono, che Ferrara, che appunto da qualche anno vive in Italia a Roma, sta portando avanti in questi anni. Così come non mancano i riferimenti alla storia, ad esempio col film di Susanna Nicchiarelli, appunto Miss Marx, e soprattutto tra le diciamo questa necessità di andare a carpire tra le pieghe della storia. Nicchiarelli aveva presentato a Venezia Nico 1988, e qui un altro ritratto di donna, la figlia appunto di Karl Marx, la sestogenita di casa Marx, militante socialista, attivista nel campo dei diritti delle donne, che in qualche modo è anche una risposta, peraltro questa presenza massiccia appunto di registe donne, di racconti al femminile, alle accuse che erano state mosse negli ultimi alla gestione degli ultimi anni, un po' penalizzanti appunto per il cinema femminile o il cinema comunque fatto da donne. La vicenda appunto di Miss Marx, di Giulia Eleanor Marx, soprannominata Tessie, è quella di una donna che in qualche modo è destinata a non trovare una libertà di movimento, e che appunto la Nicchiarelli segue costantemente, segue continuamente, anche con elementi anacronistici che servono in qualche modo proprio per riportare un personaggio lontano della storia ai giorni nostri. Ma come dicevo appunto, Venezia continua, e naturalmente continueranno anche i nostri reportage qui dal Lido di Venezia.